giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Almeno un quintale di cocaina, ancora da determinare l'entità del maxi sequestro di droga nel porto di Trieste. La CGIL fa i conti, Wärtsilä vale 100 milioni di PIL per Trieste, intanto Electrolux in perdita annuncia tagli. Costi energetici, a rischio il 20% delle aziende artigiane, il comparto chiede aiuto al governo. L'infettivologo Matteo Bassetti, contestato dai Novax a Gorizia, si alza e se ne va, parla all'organizzatore dell'evento. Estate infinita, fa troppo caldo e ortaggi e frutta ne risentono, funghi e cimici mettono a rischio i raccolti. Torna al Verdi di Trieste, Otello apre la stagione lirica, il maestro Oren con Trieste è una storia d'amore. Gran finale con il brasiliano Tocchino per il Festival Vocali a Maniago, omaggio a Jobim e De Moraes. Pallanuoto, Trieste sfortunata in Eurocup, battuta dai padroni di casa serbi, discorso qualificazione rimandato a domani. 7:19 minuti di sabato 29 ottobre, buongiorno da Anna Daciocche, Rita Micoli. In apertura uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 14 gradi a Trieste, mare calmo con temperatura di 20 gradi e mezzo, a Gorizia e a Udine 11 gradi, a Pordenone 10, a Tolmezzo 12 gradi, a Forni di Sopra 14, a Tarvisio 5 gradi, sul Piancavallo 10 gradi e 5 decimi, 6 gradi e mezzo a Sappada, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 14 gradi, a Lignano 16 gradi, a Grado 15, temperatura del mare nelle due località 19 gradi. Le previsioni, cielo in genere sereno, poco nuvoloso e farà ancora molto caldo per il periodo, specialmente in quota. E in apertura di giornale parliamo ancora del maxi sequestro di cocaina in porto a Trieste, di cui abbiamo riferito ieri. Il quantitativo di stupefacente, si parla di almeno un quintale di droga per un valore di mercato di 20 milioni di euro, non è ancora stato stabilito con precisione, poiché la sostanza era mescolata ad un carico di caffè trasportato da un tir. Il container proveniva dal Perù. A scoprirlo i cani antidroga della Guardia di Finanza, impegnata in controlli di routine con gli ispettori delle dogane. La cocaina si trovava sul container che era trasportato da una nave, come detto, nascosto in sacchi contenenti caffè. La Procura della Repubblica ora sta indagando per risalire alla provenienza e identificare i destinatari del carico. Faremo tutto il possibile per assicurarli alla giustizia, ha detto il procuratore Antonio De Nicolo. Si tratta di uno dei quantitativi di droga più rilevanti ma intercettati nello scalo giuliano. Solo pochi mesi fa, a giugno, nel capoluogo regionale, le fiamme gialle, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, sequestrarono 4,5 tonnellate di cocaina, sempre proveniente dal Sud America. Siamo ai temi dell'economia e il lavoro. 100 milioni di impatto sul PIL di Trieste in caso di stop alla produzione nello stabilimento Wärtsilä di Sant'Orligo della Valle. La stima è stata fatta dalla CGIL, che accusa la multinazionale. Dai bilanci presentati non si evidenziano perdite. Trieste più povera se Wärtsilä chiude. Se i lavoratori diretti, quelli dell'indotto, fornitori, visitatori e somministrati, circa 1.500 persone, non percepiranno più lo stipendio, a pagarne le spese sarà la città nel suo insieme. 100 milioni di euro in meno di PIL, stima la CGIL, che presenta una relazione sull'impatto economico della chiusura dello stabilimento. Michele Piga, CGIL Trieste. Questi salari alimentano un'altra economia, altri posti di lavoro rispetto ai servizi e al commercio, quindi un impatto straordinario che ci dice quanto sia importante la presenza dell'industria e di Wärtsilä in questo momento su questo territorio. Ed in effetti i proprietari delle attività commerciali di Sant'Orligo della Valle, a ridosso dello stabilimento, sono preoccupati, a partire da Roberto Tedesco, che tra supermercato e bar ha 30 dipendenti a cui garantire lo stipendio. Tra i suoi clienti moltissimi lavorano in Wärtsilä. Noi lavoriamo molto con loro, sono qui vicino e quando finisco il turno di lavoro vengono a fare gli acquisti qui da noi. Per lei significherà dover ridurre il personale, secondo lei, perché avrà meno clienti oppure no? Forse anche sì. Per adesso stiamo tenendo ancora abbastanza bene, però vediamo nei proseguisti la faccenda come si evolverà. ha aperto le attività qui oltre 20 anni fa. Quei lavoratori sono ormai famiglia anche per lui. Infatti, da quando a luglio hanno iniziato il presidio, lui ogni domenica porta a tutti il pranzo. Per la solidarietà nostra nei confronti dei dipendenti che sono rimasti senza lavoro. Eppure i bilanci sono sempre stati chiusi in positivo, persino negli anni della pandemia gli utili versati sempre alla casa madre finlandese. I sindacati si aspettano dal neo ministro Adolfo Urso, che ha tra l'altro la nuova dicitura di ministro per il Made in Italy, una risposta chiara. Marco Relli, FIOM Trieste. Siamo la nazione con i record di costruzioni di navi cruise al mondo, non possiamo non produrci anche i motori in casa, sarebbe veramente assurdo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia. Grazie Giulia. Il netto peggioramento del bilancio di Electrolux non dovrebbe impattare direttamente sulla fabbrica di Porcia, anche se è presto per fare delle valutazioni. Ieri la multinazionale svedese ha annunciato il taglio di circa 4.000 posti di lavoro, principalmente negli stabilimenti del Nord America, che hanno fatto registrare una perdita considerevole. La trimestrale del gruppo segna una perdita di 605 milioni di corone, pari a 55 milioni di dollari, mentre lo scorso anno il bilancio aveva chiuso in utile. I ricavi sono aumentati, ma si è registrato un vertiginoso aumento dei prezzi come effetto dell'attuale congiuntura internazionale. Il segretario regionale della UIL, Roberto Zami, è molto prudente, siccome le previsioni sui volumi di produzione per il 2023 parlano di una ulteriore diminuzione. Siamo preoccupati anche per l'Italia, ha detto Zami. Non possiamo essere certi che Porcia non venga toccata in maniera diretta o indiretta da questi tagli, anche perché garantisce dei servizi agli stabilimenti Electrolux sparsi in tutto il mondo. L'assemblea dei soci di Danieli intanto ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno, che presenta un utile di 29.800.000 euro, e ha esaminato il bilancio consolidato con un utile netto di 218.700.000 euro. L'assemblea ha quindi approvato la distribuzione di dividendi pari a 0,28 euro per ogni azione ordinaria e 0,30 euro per ogni azione di risparmio. E si tiene questa mattina al MIB di Trieste la cerimonia di laurea dei 27 studenti che hanno frequentato il primo master biennale in Business of Administration. Provengono da 4 paesi, Egitto, Iran, Italia, Nigeria. Alla cerimonia interverrà l'udinese Stefano Venier, amministratore delegato di Snam e membro del consiglio di amministrazione della Business School MIB Trieste. Inizio alle 11. Proseguono le nostre interviste a rappresentanti nazionali di categoria sul caro energia. Il collega Loris Gai ha sentito Dario Costantini, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'allarme era stato lanciato l'anno scorso. In uno studio la CNA, Confederazione Nazionale Artigianato, avvertiva che con quei costi energetici quasi 200.000 imprese sarebbero state a rischio. Dopo 10 mesi questi costi energetici per quelle imprese sono aumentati quasi del 300%. Quindi adesso ci sono dei rischi chiusura? Rischi chiusura che purtroppo noi valutiamo addirittura in un 20% delle attività produttive del nostro paese. Un impatto pesante se si considera che la stragrande maggioranza del nostro sistema produttivo è costituito proprio da piccole e medie imprese, da qui le richieste al nuovo governo. Innanzitutto prorogare il credito di imposta sull'energia anche per le imprese micro e piccole, ovvero quelle che hanno un impiego di energia dai 4 kW e mezzo in su. E poi noi crediamo che il nuovo governo dovrà andare a bussare all'Europa utilizzando strumenti che già conosciamo perché sono stati usati per esempio durante il Covid, che velocemente potrebbero dare un riscontro. Inoltre per CNA bisogna ridisegnare il concetto di impresa energivora. A volte l'impatto di quei costi è sottovalutato. Un esempio, le lavanderie. È un'impresa non energivora perché ha piccoli bilanci, però nel piccolo bilancio della lavanderia sotto casa i costi energetici sono aumentati dal 20 a quasi il 50%, significa chiudere per questa attività. In generale la richiesta è maggiore attenzione al mondo dell'artigianato. L'ho detto a tutti i leader politici del nostro paese, per questo mese e mezzo di campagna elettorale siamo stati per tutti la spina dorsale di questo paese. Noi vorremmo esserlo adesso, non solo durante le campagne elettorali. La tendenza all'innalzamento delle temperature potrebbe cambiare a lungo termine il tipo di specie arboree presenti sul territorio, ma il caldo provoca anche effetti immediati, ad esempio su frutteti e semine. Iniziate ad abituarvi a città friulane costellate di fichi d'India ed eucalipti. È il cambiamento climatico, ma le temperature sopra la media di questi giorni avranno conseguenze già in primavera. Se le foglie non cadono, le piante vanno in stress, sono più fragili e soggette a malattie. Avremo cioè molti più alberi morenti. Non dobbiamo però aspettare mesi per vedere i primi problemi nei campi e negli orti a causa dell'assenza di sbalzi termici. Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA. Sulle specie autunno-vernine ci sono due interruttori, la durata delle ore di luce e la temperatura media. Se la temperatura media non scende, la pianta sa che si sta avvicinando all'autunno-inverno perché le ore di luce scendono e la pianta sostanzialmente impazzisce. Fagioli, radicchi, cavoli, chi vive della vendita di orticole si attende una minore resa in termini qualitativi. Elevate temperature significa avere anche ortaggi meno colorati, quindi meno appetibili sul mercato, che il mercato pagherà meno. Il frutticoltore Peter Larker stima una possibile perdita di valore tra le varietà di mele invernali del 30%. Andrea Businaro, presidente di Coldiretti La Tisana, dice che si è aggravato il problema della maculatura bruna, una malattia funginea. In alcuni casi i danni superano il 60% del raccolto e la sua azienda ha deciso di estirpare un ettaro di peri. Sottoterra, intanto, le falde continuano ad essere basse e non si stanno ricaricando come dovrebbero in questi mesi. In assenza di piogge c'è da temere per l'anno prossimo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Regione ha stanziato 300.000 euro per incentivare iniziative in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne in programma il 25 novembre. Per realizzare tali iniziative la Giunta regionale ha approvato le linee guida dell'avviso pubblico rivolto ai comuni incaricati di promuovere azioni contro la violenza sulle donne. L'assessora regionale Alessia Rosolin ha ricordato come il contrasto alla violenza di genere passa attraverso la cultura e la sensibilizzazione. Il Partito Democratico è chiamato a scegliere il segretario regionale. Due candidati, Chiara Daggiau e Renzo Oliva. L'assemblea è convocata per questa mattina. Oltre i 100 i componenti chiamati a scegliere. Subito dopo l'apertura dei lavori, due candidati esporranno il loro programma. Poi inizieranno le operazioni di voto. L'infettivologo Matteo Bassetti, invitato a un evento giovedì al Teatro Verdi di Gorizia del Festival Alienazioni, ha abbandonato l'incontro in seguito a una ripetuta contestazione da parte di un gruppo di Novax che ha disturbato l'incontro fin dall'inizio. Alex Pessotto dell'Associazione Gorizia Spettacoli ci spiega com'è andata e perché proteste del genere continuano ad aver luogo. È accaduto che il professor Bassetti aveva saputo poco prima dell'inizio dell'incontro goriziano che in platea c'erano numerosi Novax pronti a contestarlo. Da parte sua quindi c'era la volontà di non salire nemmeno sul palco del Teatro Verdi proprio a causa di questo clima a lui ostile. Poi però anche per rispetto di una regione che l'ha accolto, verso la quale serve ancora così una gratitudine, un senso di riconoscenza, il professore ha accettato di dar vita all'appuntamento di salire su quel palco. Le cose non sono andate come sperato? Direi di no, in preciso c'è stato qualche evidente dissenso che siamo riusciti così ad arginare. Dopo un bel po' tuttavia le contestazioni sono state ancora più evidenti, anzi molto più evidenti, e allora il professor Bassetti ha chiesto di poter proseguire, altrimenti se ne sarebbe andato. Le contestazioni non si sono placate e c'è chi anche ha risposto alla sua domanda dicendo che se ne poteva tranquillamente andare, si è anche diretto verso il palco e l'incontro così si è concluso. Sicuramente insomma qualche controllo maggiore andava, secondo me, e la mia opinione andava, secondo me, effettuato. Parliamo dei Novax, perché continuano a protestare? Non penso di dover essere io a dirlo e non mi permetto certamente di interpretare il pensiero altrui. Decisamente la pandemia ha inasprito il nostro atteggiamento, direi anche nei confronti della vita e nei confronti del prossimo. Sono conseguenze di cui portiamo ancora i segni. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il cantiere di Viale Cadore a Udine è ormai alle fasi conclusive, ora rimangono solo delle rifiniture da fare per la pista ciclabile. Completati i lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pista ciclabile di Viale Cadore a Udine, iniziati a marzo per un totale di 400.000 euro, hanno riguardato anche altre 6 vie del capoluogo friulano, salvati in via Cadore tutti i pini marittimi che caratterizzano il viale, portato a livello della pista ciclabile a quello del marciapiede e allargata l'aiuola che ospita le piante per evitare che le radici delle piante sollevino nuovamente l'asfalto, diventando pericolose per i pedoni e per i ciclisti. Rimosse anche le barriere architettoniche, la ciclabile nei prossimi giorni verrà dipinta di verde ed è stata realizzata per collegarsi con quella già fatta su via Martignacco. Loris Michelini, assessore ai lavori pubblici. A fronte appunto di questi interventi stiamo collegando tutte le piste ciclabili attualmente esistenti perché così il biciplan che abbiamo appena approvato prende consistenza e si attua un po' alla volta. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 7.34, parliamo di cultura e spettacoli. L'Otello, diretto da Daniel Oren, inaugurerà la stagione del Teatro Lirico Verdi di Trieste il 4 novembre. Per il maestro si tratta di un graditissimo ritorno sul palco di Trieste, dove diresse il suo primo concerto. La nuova stagione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste riparte da Otello, uno dei titoli più significativi e ricorrenti nella storia del teatro cittadino, che mancava da 12 anni dalle scene triestine e che segna anche il ritorno sul podio del maestro Daniel Oren. Il primo concerto che ho mai diretto nella mia vita è a Trieste al Teatro Verdi, di cui è cominciata, diciamo, questa grande storia d'amore con tutti, con questo teatro meraviglioso, con il pubblico meraviglioso, con questa città che amo così tanto. Devo dire che per tantissimi anni non sono tornati e non saprei perché, ma probabilmente perché le direzioni cambiano. La voce di Desdemona è quella del soprano armeno Lianna Routonian. Otello è il tenore, suo connazionale Arsen Sogomonian. La regia è affidata a Giulio Ciabatti. Rispetto all'edizione precedente, quella del 2010 di cui curai la regia, questa è una nuova ideazione scenica curata dai laboratori del teatro. È uno spazio scenico scandito da delle colonne, un'unica grande stanza blu che accoglie tutte le scene, diciamo tutti i quattro atti. Questo significa che c'è anche una, diciamo, c'è anche una drammaturgia scenica rispetto a quella della parola, quella dell'espressione corporea, che ha una sua valenza. Otello è una rivoluzione assoluta nel percorso verdiano ed è, sottolinea il maestro Oren, davvero difficile da realizzare. Devo dire che quello che ho sentito, risentito dopo tantissimi anni, è la grande passione dell'orchestra. Alla fin fine la musica non basta eseguirla, bisogna e fare musica, come dico io, bisogna dare le grandi emozioni e tutti noi dobbiamo far sentire questo brivido dietro la schiena al pubblico, ed è questo lavoro che cerco di fare. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Gran finale al Festival Vocalia di Maniago, che chiude la sua 15ª edizione con Toquinho, una delle voci più celebri e importanti della storia musicale del Brasile. L'artista sudamericano, insieme alla connazionale Camila Faustino, con Dudu Penza al basso e Mauro Martins alla batteria, sarà protagonista di uno spettacolo che omaggerà la saudade di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, insieme a tanti altri. Samba, bossa nova e altre sonorità stasera al Teatro Verdi. A Cile inizia il volo del jazz, stasera il primo dei 6 concerti in programma della 17ª stagione al Teatro Zancanaro di Sacile, con il pianista Christian Sands, che alle 21 si esibisce in trio con il contrabbassista Phil Norris e il batterista Ryan Sands nella sua unica tappa a nord-est ad appena 30 anni. Il pianista Christian Sands ha già una notevole carriera alle spalle, è diventato familiare al grande pubblico come membro prima dell'orchestra e poi del trio di Christian McBride, oltre che ad aver lavorato con artisti del calibro di Gregory Porter, Jerry Allen ed Esperanza Spalding. 6 i concerti in programma del volo del jazz, con una serata speciale a Palazzo Ragazzoni e 4 iniziative collaterali. un'iniziativa che unisce scuola e teatro. A Pordenone gli studenti vanno in scena grazie a una produzione tra il Teatro Stabil Furlan e il progetto di formazione musicale Orpheus della storica società operaia di Pordenone. Lo spettacolo è un omaggio al centenario della nascita di Pasolini dal titolo Se vivrò dovrò pure tornare. Tre scuole hanno aderito all'iniziativa, l'anteprima all'Auditorium Concordia di Pordenone in mattina scolastica e poi in recita serale alle 20.45 per il pubblico. A Spilimbergo, a Palazzo Taddea, alle 18, si inaugura la mostra National Geographic Photo Arc del fotografo americano Joel Sartore. Esibizione chiude il Festival Friuli Venezia Giulia Fotografia 2022, arrivato alla 36esima edizione. La mostra di Sartore è il frutto della collaborazione tra il fotografo e la National Geographic Society in un progetto ambizioso che documenta le specie viventi a rischio di estinzione negli zoo, negli acquari e nelle riserve naturali protette. Una vera e propria arca di Noè che mira a sensibilizzare sul problema della scomparsa della biodiversità. La mostra sarà aperta fino al 29 gennaio. Torna a Palinsesti, rassegna di arte contemporanea di San Vito al Tagliamento, arrivata alla 17esima edizione da oggi fino al 15 gennaio. L'inaugurazione alle 17 al Teatro Arrigoni di San Vito sarà seguita da una visita alle diverse sezioni che la compongono, dislocate lungo il paese, dall'antico ospedale dove c'è la sezione mappe di colore fino al palazzo Tullio Altan, dove sarà esposta la personale di Hella Gerlach Spiritual Bypass. Per celebrare i 100 anni dell'intitolazione della zona monumentale del Monte San Michele è previsto un calendario ricco di eventi e iniziative, tra queste le visite guidate lungo l'intera zona sacra e l'allestimento di un'area virtuale nel museo. Questa mattina alle 10 nel piazzale davanti al museo multimediale o in caso di pioggia all'interno della canoniera l'apertura delle celebrazioni, a seguire le prime visite guidate alle 11 e alle 15, visite che seguiranno con gli stessi orari fino a martedì 1 novembre. Una marcia lungo i sentieri della Carnia per opporsi al progetto della strada Ciampizzolon-Malgattuglia-Sappada. Si tratta di una nuova iniziativa in difesa dei sentieri CAI 227-228 interessati dal progetto di una strada forestale. L'escursione, che si svolgerà tra piani di Vas, sopra Rigolato e Casera Tuglia, vedrà partecipare tra gli altri anche un esperto di grande guerra, Marco Pascoli, un rappresentante di Mountain Wilderness, Omar Gubeil. Il ritrovo è fissato alle 9.30 a Piani di Vas. La marcia durerà circa 5 ore, pranzo e spiegazioni comprese. 7.41, siamo allo sport, pallanuoto. Nella terza partita del secondo turno di Eurocup in corso di svolgimento in Serbia a Šabac, Pallanuoto Trieste è stata battuta dai padroni di casa per 10-9. Il gol decisivo, complice una deviazione, è arrivato proprio ad un soffio dalla sirena. I triestini restano così a quota 6 in classifica e la qualificazione alla fase successiva di Eurocup è rimandata a domani, quando si giocheranno le ultime gare. La Pallanuoto di Trieste affronterà i francesi del Paidai alle 9.30 di domani, appunto. Il basket, la Gesteco Cividale affronta in casa un'avversaria dal nome prestigioso, la Fortitudo Bologna. Coach Pillastrini si troverà di fronte alla società nella quale ha iniziato la carriera da allenatore. I gialloblu sono reduci dalla sconfitta a Pistoia contro una delle corazzate del campionato e attualmente si trovano a metà classifica, palla 2 alle 20. Domani sarà la volta di Trieste alla ricerca del primo successo in campionato, giocherà in trasferta a Napoli. Per la 2 la Apul Dual West sempre domani affronterà in trasferta Rimini. Basket a 2 femminile, Delser Women Apu Udine ospita l'Alpo Villafranca alle 19 oggi al Pala Benedetti di Udine. E prosegue OPC nel torneo internazionale giovanile No Borders Eurocup Trieste, promosso dall'associazione IADRA. Ieri l'Armani Milano ha battuto il Bayern Monaco per 76-67. Netto successo del Bassano sui serbi del Partizan Belgrado per 69-43. Il Real Madrid ha superato agevolmente l'Olimpia Lubiana per 75-44. Successo per la Stella Azzurra Roma sul Barcellona per 72-56. Pattinaggio a rotelle, titolo mondiale per Gerardo Altiero De Grassi della Fincantieri nella Solo Dance Junior a Buenos Aires. Una gara impeccabile, la sua in entrambe le prove è stato nettamente il migliore dei concorrenti. Ora cercherà di centrare un altro successo in coppia con la modenese Roberta Sasso. Dopo la prima prova i due sono al primo posto della classifica. Nella A2 di pallavolo maschile, scontro al vertice nel Palasport di Prata, la Tinet terza in classifica, ospita la seconda, il Tonno Callippo Vibo Valencia. Inizio alle 20:30 e per la A2 di pallamano Trieste affronta al Palachiarbola l'Oriago, inizio alle 19. Alla scoperta del territorio con la bici elettrica, l'iniziativa dell'Ortoteatro di Aviano che vuole raccontare la storia di Primo Carnera, il celebre pugile di Sequals, con una visita a Villa Carnera dove la sua vita verrà raccontata attraverso le sue parole, la forza evocativa della musica. Si parte dalla B di Aviano alle 8:45, ritorno previsto in bicicletta intorno all'1. Siamo alla rassegna stampa, una foto con dei cicloturisti immersi nel verde apre la pagina del Piccolo di Trieste che titola in bici dal Carso ai Balcani, in arrivo infatti 31 milioni di euro per l'Interreg Italia-Slovenia dal titolo Adrio Cycle Tour. Quindi la notizia del sequestro di circa 100 kg di cocaina nel porto di Trieste, droga nascosta tra i chicchi crudi di caffè. Ora si tratta di ricostruire la filiera e capire a chi era destinata, dichiara il procuratore capo De Nicolo, che non ravvisa però recrudescenze. Il Piccolo riporta della visita di Ursula von der Leyen a Sarajevo, dove ha ribadito la porta aperta dell'Unione alla Bosnia. La presidente della Commissione si è poi recata a Belgrado, ha incontrato il premier Vucic e gli ha espresso la necessità di avere una politica estera lineare. Le parrocchie aprono le porte nelle notti d'inverno ai profughi e la richiesta dei 600 firmatari di una lettera indirizzata al sindaco di Trieste nei giorni scorsi per accelerare sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Firmatari che hanno anche incontrato il sindaco di piazza che ha illustrato loro il progetto per il nuovo dormitorio. La regione prende tempo sui medici non vaccinati. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine dopo l'annuncio del governo che intende reintegrarli. Accanto una foto del sindaco Pietro Fontanini. Udine ingrata, non so se mi ricandido, ha detto ieri a margine di un incontro nelle pagine interne. Le reazioni di alleati e opposizione e Fratelli d'Italia chiede subito una riunione di maggioranza. A Udine ancora un'addetta delle pulizie della sede di FVG Strade si trova davanti un ladro e lo mette in fuga. Accanto il bonus psicologo per gli studenti, presentate già 400 richieste. C'è anche il completamento dei lavori in via Cadore, la raccolta fondi in memoria dell'ingegnere friulano morto alcune settimane fa durante una videoconferenza in diretta con colleghi di tutta Italia. In basso a Pertegada, aperitivo a lume di candela per risparmiare. Infermieri contesi prima della laurea, l'apertura del Gazzettino, dorso del Friuli, guerra colpi di bandi fra aziende sanitarie. Nella fotonotizia l'Udinese dicta attenzione in vista del match di domani contro la Cremonese. Per la cronaca, la raffica di furti nel triangolo della sedia. Poi di spalla il comune che dà delle penali a due coop che accolgono minori non accompagnati per la gestione dei servizi non adeguata e bollette triplicate. Butrio spegne le luci. In taglio basso, salute, verso la riapertura dei pronto soccorso di Cividale e Gemona e poi il basket con la Gesteco contro la Storia, la Fortitudo Bologna. L'edizione di Gorizia del Piccolo ci porta con una foto d'apertura in spiaggia a Grado, perché è invasa dai turisti per questo lungo ponte. Definito poi il piano delle concessioni a Porto Rose, che 50 ettari di aree demaniali saranno ripartiti tra 4 operatori, previsti investimenti per circa 30 milioni di euro. Dalle pagine goriziane leggiamo anche che è stato attivato il tavolo tecnico per i progetti Go 2025. In prima anche il titolo mondiale junior nel pattinaggio a rotelle per Altiero De Grassi della Fincantieri nella categoria solo dance. Sul Gazzettino di Pordenone la fotonotizia per l'ultimo saluto ad Alfio Scandurra sul suo campo da rugby. Ieri anche il raglio dell'amato asinello Fiocco, con cui il 52enne insegnava nelle sue peregrinazioni il rispetto per la natura, le persone e gli animali. Morti del comunismo, Ampi contro il comune, si infiamma la polemica sulla giornata voluta in città. Iniziativa senza senso, dice l'associazione Partigiani. Di spalla a Sacile, l'ex sindaco assessore Ceraulo annuncia il suo addio alla politica. A Fontana Fredda invece l'addio a Rino De Marco, imprenditore visionario. Sul Messaggero Veneto l'apertura è per i tagli di Electrolux. Nella fotonotizia, Maxi fattura l'interporto per gli extra profitti sull'energia generati però da fotovoltaico, 330.000 euro da pagare entro ottobre. Di spalla agevolazioni ai bar, sdoppiata la tassa sui tavoli esterni. Poi un ladro colto sul fatto in cimitero ad Arzene, fugge con una borsa. Poi il postino sospeso, vince la causa, non sarà trasferito a Venezia, decisione che era stata presa dopo che gli era stata revocata la patente. A Udine torna il Luna Park di Santa Caterina, allestito nel parcheggio vicino allo Stadio Friuli dopo alcuni anni di permanenza in piazza Primo Maggio. Sarà aperto dalle 10 alle 23. Lo spostamento nel quartiere dei Rizzi è facilitato anche dal fatto che l'udinese giocherà solamente un incontro casalingo di Serie A in questo periodo, venerdì 4 novembre contro il Lecce, visto che poi ci sarà la sosta del campionato per i mondiali. Le giostre chiuderanno domenica 27 novembre. E comincia oggi la Fiera dei Santi, appuntamento storico a Rivignano Teor per festeggiare il giorno dedicato ai defunti. L'inaugurazione alle 19 e seguirà questa sera uno spettacolo di danza e la Notte Bianca dei Santi e dei Morti con musica e chioschi aperti fino a notte fonda. Affrontare il tema delle migrazioni a passo di danza è lo spettacolo Le Etiopiche di Mattia Cason, che rilegge la vita di Alessandro Magno per metterne in luce gli aspetti in comune con il mondo dei rifugiati, alle 20:30 al Palamostra di Udine per la stagione Teatro Contatto. Appuntamento con il friulano al Teatro Pasolini di Cervignano, Guarnerius, Mangialibri, Sue Apparsuz di Econangelo Floramo, e Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi reciteranno in lingua friulana e italiana. Alle 20:45 lo spettacolo apre il cartellone della prosa. A San Giorgio di Nogaro comincia il festival teatrale Epicentrico, in programma 10 spettacoli e laboratori per tutte le età. Lo spettacolo di oggi, Mr. Brush, sarà all'aperto in via Roma alle 11. Per estensioni, Jazz Club Diffuso, Marco Cepac Group, all'Auditorium Giovanni Paolo II della parrocchia di via Riccardo di Giusto alle 21. Alla ricerca di Giovan Battista Tiepola, Udine, con il progetto Itineraria Antiqua et Nova, il ritrovo alle 10 in piazza Duomo a Udine. A 200 anni dalla morte di Antonio Canova, a Trieste Luca Nanni Pieri presenterà il libro Candore Immortale a Savoia Excelsior Palace alle 17:30. E l'ultimo fine settimana per Sapori nelle Valli, con la Fiera Mercato a San Pietro al Natisone, con show cooking dell'Associazione Cuochi, a seguire la castagnata nei boschi della Giulia Marmi tra San Leonardo e San Pietro al Natisone. In occasione del progetto Orizzonti Rurali, il Gal Carso organizza una pedalata sul percorso cicloturistico Via Bora. Ritrova alle 9:15 a San Michele del Carso. A Trieste, alla Galleria Rettori Tribio, alle 18, la presentazione di Franco Rosso di una performance di body painting dal vivo e di danza sciamanica. E oggi su Rai 3, il settimanale magazine della testata giornalistica regionale, un'anticipazione. Torna settimanale in questa puntata, scippi, spaccio, vandalismi nelle piccole stazioni periferiche, il caso della circumvesuviana e le iniziative per la sicurezza. San Gimignano, la più amata e più apprezzata online dagli stranieri. Dall'Università di Pavia i nuovi agronomi per coltivazioni più sostenibili e salutari, si parte dal riso. Saune e piscine coperte degli alberghi in Sud Tirolo, il caro energia. Il coro Giovanni Paolo II di Albizzate impegnato contro la fibrosi cistica. Locali storici, torrefazioni, industrie, Trieste, capitale del caffè. Valzer di ieri e valori di oggi per il gran ballo delle debuttanti a Torino. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia e Giulia andrà in onda alle 11:30 con Biblos sul rapporto tra stampa e giustizia ed Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano che a Trieste ha presentato il libro Delitti in prima pagina. Poi Massimo Maggiari, scrittore viaggiatore, a scoprire l'anima magica delle popolazioni indigene. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Federico Comare, Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Daniela Sol, Dana Daciok e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.